Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è stata ripresa, diciamo, dall'Italia la scena politica per quanto riguarda il primo piano, appunto, della politica. Ieri sapete che Hollande aveva un po' surclassato il livello del nostro dibattito politico con le sue vicende amatorie o amatoriali, che dir si voglia. E oggi invece di nuovo la politica italiana torna a farsi sentire, con l'accentuazione dello scontro sulla legge elettorale. Un dibattito infinito, da quanti anni è che si parla di riforma della legge elettorale, e adesso è sempre stato abbastanza incandescente. Poi in realtà ha sonnecchiato per anni, e adesso con Renzi evidentemente di nuovo risale alla ribalta delle cronache. C'è lo scontro proprio nel PD, all'interno del PD, sulla legge elettorale. Renzi incontra Alfano, poi dice che vuole incontrare anche Berlusconi, però i bersaniani si incavolano e dicono no, nessun incontro con il Cavaliere. E Casaleggio intanto, lo stratega del Movimento 5 Stelle, dice no alle proposte del PD, le proposte di Renzi non esistono. Intanto però si sposta di nuovo un pochino la scena, giusto per il momento sembra un gossip, ma forse qualcosa di più, con Michelle Obama che compie 50 anni e apre al Botox, vabbè, dice mai dire mai se dovessi fare dei ritocchini, ma intanto serpeggiano in America voci di crisi con Obama. C'è un commentatore dell'ultradestra che dice: ma perché Barack non le mette le corna? Occupiamoci adesso delle notizie principali. Legge elettorale, il PD è spaccato e il Movimento 5 Stelle dice no alle proposte di Renzi. Governo Letta anticipa Napolitano alcuni elementi sul patto di coalizione al quale sta lavorando, per il momento però non ci sono indiscrezioni. Caso Chienge, la Padania non si scusa e Salvini dice invocarne la chiusura del giornale è fascismo. Borsa Piazza Affari supera quota 20.000 punti dopo 2 anni e mezzo. La Siria, secondo l'OCHA, l'ufficio dell'ONU per il coordinamento degli aiuti umanitari, sono a rischio in Siria, a rischio fame 250.000 persone. Il calcio, Clarence Seedorf arriva allo stadio di San Siro e abbraccia Adriano Galliani prima di sedersi al suo fianco e seguire la partita Milan-Spezia, che finisce con il Milan qualificato per i quarti di finale in Coppa Italia, battendo lo Spezia per 3-1. Partiamo quindi dalla politica con Letta. Vi dicevo che ha incontrato oggi Napolitano, tornando dalla Città del Messico, ha fatto un po' resoconto e gli ha parlato di questi primi elementi del patto di coalizione al quale sta lavorando. E poi ci sono le nuove tensioni, soprattutto nel PD, provocate appunto dalle discussioni sulla legge elettorale. Una vigilia burrascosa, quella della direzione PD, scontro tra segretario e Bersaniani sul possibile incontro tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Dopo i mugugni pomeridiani spetta lo stesso segretario rispondere al TG5, così Renzi. Si dice il contrario, chi con Berlusconi ci ha fatto il governo. Io non voglio fare il governo con Berlusconi. Io voglio dire Forza Italia, che è il secondo partito italiano, lo lasciamo da parte? Non lo consideriamo per la legge elettorale? Ecco, se siamo seri oggi, noi non possiamo non considerare quello che dice Forza Italia. Sulle regole, se ci vediamo è per provare a chiudere. I bersaniani contestano il possibile incontro con il Cavaliere proprio nella sede del PD. Alfredo Dattorre. Sono convinto che Renzi avrà la cautela e l'attenzione di non incontrare Berlusconi, che allo stato è un pregiudicato nella sede del PD. Stiamo molto attenti a resuscitare politicamente Berlusconi, a dargli anche patenti di legittimità. Intanto il segretario democratico incontra i leader del nuovo centrodestra e di sé, Angelino Alfano e Nichi Vendola. Renzi vuole stringere in 48-72 ore e presentare una proposta in Commissione Affari Costituzionali alla Camera prima che il disegno di legge approdi in aula il 27 gennaio. Arriva però il no alle 3 proposte PD del Movimento 5 Stelle, astratte e incostituzionali, le definisce già Roberto Casaleggio, che annuncia quella nostra verrà scritta dalla rete. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a questo proposito, voi che legge elettorale vorreste? E questa legge elettorale tanto dibattuta, tanto tormentata, bisognerà vedere appunto come ne uscirà. Secondo voi quali risultati, quali soluzioni potrebbe apportare la governabilità del nostro paese, la stabilità del nostro paese? Ci sono sempre 2 canali per voi: Effetto Notte, la pagina Facebook di Effetto Notte, trattino Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi, SMS al 349-238-6666. Per le vostre opinioni sulla riforma della legge elettorale, anche naturalmente tutto quello che verrà detto questa sera. E intanto è sempre in primo piano nel dibattito politico il caso Kyenge. Ieri, vi ricordate, qui era ospite a Effetto Notte la direttrice del quotidiano La Padania, Aurora Lussana, che ha pubblicato appunto gli appuntamenti della ministra Kyenge, e poi magari ne risentiamo dopo una parte. La ministra per l'integrazione questa mattina ha ricevuto anche tra l'altro una lettera di una polvere sospetta, una piena di polvere sospetta. L'allarme poi è rientrato, ma non si placano le polemiche appunto legate al quotidiano della Lega, che continua a pubblicare i posti, gli appuntamenti e gli impegni istituzionali della ministra. Sentiamola appunto, la Kyenge. Esistono degli strumenti democratici, quindi anche per la trasparenza, ma devono essere utilizzati con onestà e intellettuale, ma anche con correttezza nella comunicazione. E che quando si parla dell'agenda, dell'attività di un ministro, allora, visto che è già sul sito, ma bisogna essere complete il più possibile, per cui bisogna, secondo me, utilizzare alcuni strumenti con la maggior cautela, cercando di non mettere in pericolo o di deviare il discorso. Allora sì, che a quel punto io comincio a dire: siamo attenti alla nostra democrazia. Ma nel frattempo, vi dicevo, prosegue la polemica con La Padania. La Padania non cambia linea sulla Kyenge. I vertici della Lega difendono la scelta del quotidiano di pubblicare ogni giorno l'agenda degli appuntamenti del ministro dell'integrazione. Mi dicono che ci sia stata una corsa alle edicole per acquistare La Padania, commenta il segretario del Carroccio Salvini. È questa la risposta della nostra gente agli attacchi e alle intimidazioni fatte contro la Lega da chi addirittura invoca il sequestro fascista. La Lega non è andata oltre il limite su questa vicenda, aggiunge Maroni. Non capisco dove sia il problema, quello di diffondere gli appuntamenti. Non capisco perché contestare il ministro Kyenge sia razzismo, contestare il presidente Maroni, come avviene qualche volta, invece sia un atto di grande democrazia. Gaffe intanto della deputata di Forza Italia Santelli, che ospite in TV con la Kyenge, afferma: i neri hanno la fortuna di non doversi truccare come noi, quindi sono più fortunati. Solidarietà al ministro dell'integrazione da parte del PD, serve una manifestazione contro il razzismo, dice Livia Turco. Le mie parole sono state strumentalizzate, replica la Santelli. Protesta in tanto della Lega a Palazzo Madama con il senatore Crosio, che urla: non toccate La Padania o scateniamo l'inferno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E un altro fronte è quello che riguarda la ministra dell'Agricoltura De Girolamo. Mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte del Movimento 5 Stelle e due interpellanze urgenti, una che del PD e una del Nuovo Centrodestra, saranno discusse venerdì nell'aula della Camera per lo scandalo che l'ha coinvolta, dopo che il direttore amministrativo dell'ASL di Benevento, Felice Pisapia, ha registrato di nascosto una conversazione riguardo l'assegnazione di un appalto in ospedale. Ricordo comunque che la ministra De Girolamo non è indagata. Si parla di tagli spesso, anche di tagli dei tribunali, ma la Consulta ferma i referendum sui tagli dei tribunali. Avanti tutta col taglio dei tribunalini. La riforma della mappa giudiziaria incassa ora pure il via libera della Consulta, tra la soddisfazione del guardasigilli e le proteste di regioni e avvocati. La Corte Costituzionale ha infatti bocciato la proposta di referendum abrogativo per la riforma che a settembre ha tagliato e accorpato quasi 1000 uffici tra tribunali minori, sedi distaccate e giudici di pace. Una proposta sostenuta per la prima volta da 9 regioni, ma fermata dopo un'ora di Camera di Consiglio dai sommi giudici, che confermano la nostra linea, gongola ora il ministro Anna Maria Cancellieri, lasciando aperto però ogni confronto per future correzioni affidate già al gruppo di studio istituito. Tra le possibili misure correttive sono allo studio quelle relative a una diversa modulazione dei bacini di utenza di alcuni uffici giudiziari interessati dagli accorpamenti. Nel question time il guardasigilli assicura la massima attenzione nel monitoraggio degli effetti della riforma, ma sul territorio la temperatura torna subito a salire e per primo il governatore veneto Luca Zaia minaccia battaglia ancor più dura, dice, in difesa del tribunale di Bassano. E così fanno ancora cittadini e avvocati dall'Abruzzo alla Sicilia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto c'è chi spende in allegria, borse, sciarpe, fumetti tra le spese pazze della regione Sicilia. L'inchiesta della Procura di Palermo sulle spese pazze dell'Assemblea regionale siciliana che coinvolge 97 tra deputati, ex deputati e portaborse è solo all'inizio. È il commento del procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci, che coordina l'inchiesta sul presunto utilizzo illecito dei fondi destinati ai gruppi parlamentari. Ieri sono stati notificati dalla Guardia di Finanza 13 avvisi di garanzia agli ex capigruppo della scorsa legislatura. Gli interrogatori partiranno il 24 gennaio. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori non ci sono solo gli acquisti fatti da alcuni deputati, dai fumetti diabolica alla biancheria intima, dal pagamento di una multa a un gioiello, da una borsa Louis Vuitton a una Sharp Hermès. Tra gli indagati anche Davide Faraone, il deputato del PD, responsabile del welfare nella segreteria di Matteo Renzi, che si difende. Mi contestano la spesa di 3.500 euro, dimostrerò che è stata legittima. Si difende anche l'ex capogruppo del PD all'ARS, Antonello Cracolici. Sono sereno, ho operato nel rispetto delle regole formali e sostanziali con sobrietà e rigore. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Siamo alla cronaca, vi voglio raccontare questa vicenda venuta poco fa sul Corriere Online. Vi ricordate il primario, l'ex primario Bregamassone di una clinica di Milano che era stata definita la clinica degli orrori, la clinica Santa Rita? Perché questo primario cosa faceva per avere poi i rimborsi dalla regione? Faceva operazioni che non erano assolutamente necessarie, anzi levava polmoni che non erano malati, seni che non erano malati, impiantava delle protesi che erano già state usate, e pensate che è stato condannato a 15 anni e mezzo di reclusione, tuttora imputato con l'accusa di omicidio in un secondo processo in relazione alla morte di 4 pazienti, nel quale rischia l'ergastolo. Eppure Pierpaolo Bregamassone, ex primario della chirurgia toracica alla Casa di Cura Santa Rita di Milano, arrestato nel giugno del 2008 per lo scandalo appunto della cosiddetta clinica degli orrori, mercoledì, cioè oggi, è tornato in libertà, scarcerato per una complicata questione procedurale legata al ricalcolo della pena chiesto dalla Corte di Cassazione. Ora attenderà, si presume, a casa sua, scrive il Corriere, senza neanche essere sottoposto a nessun controllo, che la Cassazione stabilisca in modo definitivo il calcolo della pena. Tanto per dire, siccome a dicembre avevamo parlato anche dei permessi premio serial killer, questo per dire un po' come funziona per certi versi la giustizia. E ora andiamo in Francia per lo scandalo che coinvolge il presidente Hollande, ne abbiamo in parte parlato ieri, ma ci sono delle novità. Privata o pubblica? Il giorno dopo la conferenza stampa in cui il presidente François Hollande ha rivendicato il diritto al rispetto della sua vita privata, la Francia continua a interrogarsi sul labile confine tra le due sfere. Tanto più che il settimanale satirico Canard Enchaîné ha rivelato questa mattina che l'amante di Hollande, l'attrice Julie Gayet, era stata inserita nella giuria che seleziona i 15 artisti ospitati per un anno a Villa Medici, la bella sede romana della prestigiosa Accademia di Francia, come peraltro risultava chiaramente dal sito di Villa Medici solo poche ore fa, prima che fosse normalizzato. Il ministro della Cultura si è affrettato a dire che la nomina, appena prima di Natale, non è stata convalidata. La Gayet, insomma, non sarà nella commissione, per evitare inutili polemiche. Ma la toppa sembra quasi peggio del buco. Se la storia di Hollande è privata e tale deve restare, sarebbe bene che non ci fossero dubbi e sospetti su sconfinamenti nel pubblico. Nel frattempo, la Confindustria francese ha apprezzato l'impostazione socialdemocratica del presidente, ma ha detto che 10 miliardi di sgravi non bastano, ne servono 80. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ancora all'estero, nella Siria in preda alla guerra civile, ci sono almeno 250.000 persone che si trovano in zone difficilmente raggiungibili dall'assistenza umanitaria e che sono quindi a rischio fame. Lo ha detto Valeria Amos, la capo dell'OCHA, cioè l'ufficio dell'ONU per il coordinamento degli aiuti umanitari, intervenendo oggi alla seconda conferenza dei donatori della Siria in Kuwait. Si tratta, ha detto, dell'emergenza più grande degli ultimi tempi. Parliamo anche di borsa, perché il 15 gennaio, oggi, non è stata una giornata qualunque per Piazza Affari, perché dopo 2 anni e mezzo l'indice FTSE MIB si è riportato sopra quota 20.000 punti. A fine giornata ha chiuso con un rialzo dell'1,6% a quota 20.045 punti. Siamo quindi sui livelli di inizio luglio 2011, prima che l'Italia si abbattesse la scure del rialzo dello spread dei BTP rispetto ai Bund tedeschi. Bene, al momento ci possiamo fermare, questo è un po' il resoconto della giornata. E a proposito di legge elettorale, prima di fare una sosta per chi viaggia, voglio leggere almeno due dei vostri commenti. Alberto scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: l'Italia è un paese ingovernabile per definizione, dice, colpa degli italiani. E poi Domenico scrive: l'auspicio di che la legge elettorale possa servire è grande, ma non esiste legge elettorale perfetta. Purtroppo il fatto è che non si vuole governare, tra parentesi, bene questo paese. Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono stati i fatti principali di oggi, prima di passare poi agli ospiti. La legge elettorale, il PD è spaccato, il Movimento 5 Stelle dice no alle proposte di Renzi. Per quanto riguarda il governo, Letta ha incontrato Napolitano e ha anticipato alcuni elementi sul patto di coalizione, il patto di maggioranza al quale sta lavorando. E poi proseguono le polemiche sul caso Chienge, la Padania non si scusa e Matteo Salvini dice invocarne la chiusura del quotidiano è fascismo. Borsa, un giorno particolare per Piazza Affari che supera quota 20.000 punti dopo 2 anni e mezzo. La Siria, secondo l'OSCE, l'ufficio ONU per il coordinamento degli aiuti umanitari, sono a rischio fame 250.000 persone. Per il calcio, Clarence Seedorf è arrivato allo stadio di San Siro, ha assistito alla partita Milan-Spezia. E come si è chiusa, Dario Ricci? Eccomi qua Roberta. Ciao, beh, devo dire, Seedorf si è visto solo la parte finale perché è impantanato nella nebbia e nel traffico di Milano, quindi si è reso subito conto della situazione. Ecco, l'aereo è arrivato pure in ritardo, ai tempi del grande Milan non c'erano questi ritardi da Rio de Janeiro, però insomma, battute a parte, il Milan ha vinto 3-1, si è qualificato in Coppa Italia e soprattutto interessante il tabellino perché sono tornati i protagonisti, giocatori un po' scomparsi in quest'ultimo periodo per motivi vari, in gol Robinho e il rientrante Pazzini dopo un lungo infortunio, in gol anche quell'Honda, il giapponese Honda, che è la gemma della nuova campagna acquisti. Seedorf è arrivato, ha detto sono al Milan per aprire un nuovo ciclo ma dovrò lavorare parecchio, su questo non ne dubitavamo, però intanto già questa vittoria fa morale e anche qualificazione. Bene, grazie Dario Ricci, poi ci risentiamo dopo, ci riaggiorniamo sui movimenti di Seedorf nella tentacolare metropoli milanese. Intanto però cambiamo argomento, andiamo sulla politica. E saluto subito l'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera, Ruocco. Buonasera a tutti. Vicepresidente della Commissione Finanze. Allora, sì. Il Movimento 5 Stelle sta tornando, insomma, a farsi sentire, si è sempre fatto sentire, ma in questo momento in modo particolare, diciamo la verità, si sono un po' susseguite e stratificate una serie di cose, di vostre attività, di vostre iniziative, no? In questi giorni, sì. Ruocco. Quindi dal referendum che c'è stato sul reato di clandestinità nei giorni scorsi, online, che è andato come è andato. Lei come ha votato, fra l'altro? Ma io ho votato per l'abolizione perché comunque era un reato che ingolfava il Parlamento, i tribunali, grazie anche alla nostra discussione. Alla fine sono anche riuscita ad avere, ho avuto un confronto con chi del nostro gruppo approfondiva la materia e quindi alla fine mi sono orientata in questo senso. Senta, sul caso Chienge ha un parere su quello che è successo da ieri? Guardi, anche lì io sono in commissione, come giustamente dice sottolineava lei, sono in commissione finanze, da noi passano decreti che toccano il sangue, il sudore e la carne degli italiani, quindi il caso Chienge e la Lega, i pasticci che combina la Lega ci interessano poco sotto questo aspetto, siamo molto pratici, vediamo bene la pressione fiscale, adesso c'è IMU Banca Italia che sta passando con la velocità della luce in commissione finanze, quindi su queste materie che sfiorano il gossip, francamente non perdiamo troppo tempo. La Lega evidentemente ha voglia di contraddistinguersi in qualche modo e quindi utilizza questi strumenti così, ma non ci interessano. Ho capito. Invece a proprio del vostro attivismo, no? Lancerete un altro referendum tra i vostri iscritti sulla legge elettorale, se non sbaglio. E poi prima di andare a questa, mi scusi Ruocco, voi presenterete anche una mozione, o l'avete già presentata, la mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell'Agricoltura Nunzia De Girolamo. No, la mozione sì, già è in piedi, per cui sicuramente la nostra posizione riguardo alla ministra Girolamo è questa, perché ovviamente non esiste ministro parlamentare che deve asservire gli interessi pubblici a proprio piacimento e per gli interessi privati. Noi siamo qui dentro proprio per evitare che tutto questo e per fare in modo che i cittadini si riappropriino finalmente dei propri diritti e dei propri beni pubblici, per cui per noi su questo siamo molto drastici. Vogliamo sentire un attimo, onorevole Ruocco, la ministra, dobbiamo avere forse una voce. Il ministro Nunzia De Girolamo si sta dimostrando sempre più indegna di rappresentare i cittadini. È scoppiato veramente letteralmente un caso in Campania fatto di favoritismi e chissà di quant'altro. Già prima, quando era deputata, figuriamoci da ministro. Letta e Renzi stanno dicendo ovunque che faranno qualcosa per aggiustare questa situazione, perché anche loro indignati, ma in realtà stanno solo parlando. Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia, quindi vediamo se la votano. Mettiamoli alla prova e si assumessero le loro responsabilità. Ah, ecco, era la vostra collega del Movimento 5 Stelle. Giordano, ecco. La riconosco. Sì, sì, che non è mia parente, al microfono di Enza Loddo. E quindi questo è il vostro parere, anche sì. Se la ministra ha detto che poi insomma ne parlerà in aula, in parte già ha fatto delle dichiarazioni, c'è il suo avvocato, vedevo un lancio d'agenzia di poco fa che dice è pura follia. E fra l'altro c'era anche un'altra agenzia dove una parte della registrazione sua con l'ex direttore dell'ASL del Benevento, lei diceva tanto a me non mi possono toccare perché io non ho preso soldi, non ho chiesto favori. C'era anche questa frase in questa registrazione. Ma vede, guardi, il problema di non prendere i soldi, di non chiedere i favori, non è che libera definitivamente un parlamentare dall'avere un atteggiamento corretto, perché un parlamentare ha bisogno di voti, quindi può anche non prendere i soldi, però fare dei favori essa stessa per qualcun altro che poi gli ritorna in termini elettorali. E questo è quello che poi ha portato, in particolare poi menziono la Campania, che insomma veramente è una regione martoriata, ha portato la storia della Campania ad essere negli ultimi decenni quella che è stata e che noi vorremmo fortemente incidere per una modifica, assolutamente, per un'inversione di tendenza, e ce la stiamo mettendo tutta, veramente le garantisco. Anzi, oggi in aula abbiamo anche presentato una mozione sul Fiscal Compact e su questo accordo scellerato siglato con l'Europa, che prevede addirittura la restituzione di 50 miliardi di euro circa, insomma, per 20 anni, proprio per rientrare nei parametri imposti da questo tipo di Europa. E anche su questo l'abbiamo messi alla prova, perché l'Italia non può sostenere questi numeri se vuole avere una speranza per il futuro, però hanno bocciato la nostra mozione, che appunto prevedeva una deroga a questi accordi che sono un cappio, veramente un cappio al collo. Senta, a proposito di bocciature, mi scusi onorevole Ruocco, Casaleggio, che oggi è arrivato a Roma per incontrare i parlamentari, qualcuno dice per una resa dei conti con i dissidenti, poi ne parliamo, però a proposito di bocciature, lui ha proprio bocciato, azzerato le proposte del PD, dice non esistono, sono astratte, anche quindi quella sulla riforma elettorale. In che senso non esistono? Allora, il problema è questo: la Corte Costituzionale ha sancito che quando viene distorta la volontà popolare, ovviamente, quindi neanche attribuendo dei premi di maggioranza, per esempio se una forza politica prende il 25% come voti e poi il Parlamento viene ad essere presente per una distorta legge per il 65%, ecco che quella legge costituzionale, quella legge elettorale non rispecchia ovviamente la volontà costituzionale. Ora, andando ad analizzare le proposte di Renzi, comunque distorcono in modo irragionevole la volontà popolare, per cui comunque non è che le bocce Casaleggio, ma boccia la Corte Costituzionale. Ecco, quindi tanto per iniziare. E due, noi abbiamo una nostra proposta concreta, siamo gli unici concreti che hanno già presentato una proposta di legge che verrà poi discussa anche in rete, infatti già c'è la consultazione, quindi si parte da questo lavoro immane che è stato fatto dalla nostra Commissione Affari Costituzionali, per poi discutere con il popolo, con i cittadini e insieme con un dibattito poi approdare ad una definitiva stesura. Però in tutto questo, mi scusi, ecco, in cosa consiste sinteticamente questa vostra proposta, visto che quella del PD non vi piace? Intanto rispecchia il dettato della Corte Costituzionale, questo lo voglio sottolineare, cioè? Prevede circoscrizioni piccole con preferenze, con il metodo D'Hondt, che è un metodo di ricalcolo garantito. garantisce anche la governabilità, e poi è integrata da un sistema anche che integra, cioè che ricalca un po' il metodo svizzero, che prevede anche la possibilità di dare delle preferenze negative. Ovviamente questa è un'ipotesi di base, poi come dicevamo, assolutamente la cosa è aperta in rete e si discuterà con tutti i cittadini. Anche lei, insomma, se vuole iscriversi, benvenuta, come tutti noi, e daremo tutti un contributo per affinare e per dare la nostra parola definitiva al nostro sistema elettorale. Ma nel frattempo non è che l'Italia sta a dormire, la Corte Costituzionale in fondo ci ha tracciato una strada, perché noi sappiamo che il nostro ordinamento non prevede buchi per gettare il paese nel caos. La Corte Costituzionale fa riferimento al Mattarellum del 93, che sarebbe un Mattarellum che in un tipo di legge che a quel punto rispecchierebbe la Costituzione. Allora io dico, io insomma, in quanto anche interpretando anche il Movimento 5 Stelle, noi la legge ce l'abbiamo già, il Mattarellum del 93. Però possiamo, è d'accordo che, scusi, quindi sareste d'accordo per il momento, sì, per votare col Mattarellum? No, perché poi mi chiedo, si può votare anche domani mattina, mi scusi, col Mattarellum del 93, quindi non è un problema. Intanto si discute una nuova legge elettorale e il Parlamento legittimo finalmente, con l'aiuto di tutti i cittadini, vara una riforma elettorale seria, e che non sia semplicemente al servizio dei vari partiti che se la cuciono addosso, ma che sia decisa da tutti i cittadini che pagano le tasse, ovviamente, sottolineo. Quindi è chiaro che vorreste andare il prima possibile a elezioni e ritenete che i cittadini siano in grado, insomma, di elaborare delle buone idee per la legge elettorale. Vedo per esempio Giulia, sì. Giulia scrive, cioè sia la pagina Facebook, lo ricordo agli ascoltatori di Effetto Notte, sia il numero per i messaggi al 349-238-6666, scrive: Giulia, elezioni come per i sindaci, che era anche un'idea di Renzi, questo, eliminazione del Senato, sbarramento al 10%, dice, un'utopia, ne sono consapevole, servirebbe a formare un governo saldo, anche se in realtà per applicare anche per il Presidente del Consiglio, per il Parlamento, eccetera, quindi per le elezioni politiche, le elezioni come per i sindaci, in realtà bisognerebbe fare un cambiamento costituzionale, no? In quel caso, esatto, perché si tratta di elezioni dirette, poi. Chiaro, diventa un po' complicato. Passando invece, uno dei motivi, lei giustamente sottolinea, uno dei motivi per cui noi diciamo che le tre proposte Renzi alla fine si scontrano con la Costituzione. Quindi è chiaro che i nostri, chi vorrà partecipare sicuramente al sondaggio sarà messo anche nel giusto binario, ovviamente entro certi termini costituzionali, è chiaro. Parliamo di Casaleggio adesso, è vero che è venuto a Roma anche un po' per una resa dei conti con i dissidenti, specie Aureliana, no? Che sembrava che sfugga un po' a destra, un po' di qua, un po' di là, ogni tanto cerca di trovare un ponte col PD, che ha tagliato delle teste. No, Casaleggio sta cercando. No, Casaleggio non taglia le teste. Beh, poverino. No, per carità, poverino. No. Aureliana, il problema è Aureliana, non credo neanche che si siano incontrati, perché poi io sono alla Camera, per cui abbiamo avuto anche le riunioni di commissione, diciamo che secondo me ognuno deve avere un'idea chiara di ciò che vuole dalla vita e del gruppo in cui si trova. Il Movimento 5 Stelle è un bellissimo progetto, importante per il paese, quindi è chiaro che fino a che uno ci si ritrova e convintamente percorre questa strada e lo fa con tanta grinta e tanta passione come tutto il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, benissimo. Quando però a un certo punto ci si identifica in ragioni del PD o del PDL o del SC o di da qualche altra parte, uno a quel punto fa un esame personale e si colloca eventualmente in un altro altrove posto. Chiaro, l'ultima cosa le chiedo, Carla Ruocco, sembra che sia di nuovo un po' al centro delle intenzioni di Casaleggio e del Movimento 5 Stelle, insomma, ci sarà anche il cambio di strategia comunicativa per i parlamentari, e sembra che questo sia confermato dall'ingresso nello staff del Movimento 5 Stelle a Roma di Silvia Virgulti, che si occuperà di lingue, public speaking e gestualità, anche se io invito tutti i del Movimento 5 Stelle in radio, proprio perché nessuno può interpretare, analizzare i gesti, potete fare tutti i gesti che volete, tanto in radio non si vedono, l'importante è quello che si dice, la sostanza, quindi viva la radio. Grazie, infatti anche io do un manforte a quello che ha detto, mi piace moltissimo la radio, perché enfatizza proprio l'espressività vocale, mi piace molto questo. Bene, l'aspetto allora per la prossima volta, intanto buon lavoro. Grazie onorevole Ruocco. Grazie. Ci prendiamo una sosta e poi voi potete continuare naturalmente a esprimere le vostre opinioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e poi ci saranno altri argomenti da approfondire. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, parliamo ancora di politica, abbiamo lasciato il Movimento 5 Stelle e invece ci rivolgiamo adesso al PD con l'onorevole Roberto Speranza, buonasera. Buonasera, buonasera. Capogruppo del PD alla Camera, che succede nel PD che vi spaccate sulla legge elettorale, Speranza? Guardi, sono tutte letture ancora premature, sinceramente. La nostra direzione nazionale è domani, lì ci confronteremo come fa un grande partito. Noi non abbiamo uno che comanda e decide sulla testa di tutti come gli altri partiti, siamo un grande soggetto democratico, ci confrontiamo, abbiamo delle idee chiare sugli obiettivi da perseguire. Io sono convinto che con la spinta del Partito Democratico finalmente potremo avere una nuova legge elettorale, sono ottimista. Ma a proposito dell'attivismo di Renzi, che cosa ne pensa? Da quando è diventato segretario del PD, che ne pensa lei, onorevole Roberto Speranza? Tra l'altro lei, si può dire, esistono le correnti chiaramente e in modo trasparente anche nel PD, lei è un bersaniano se non sbaglio. Io penso questo, che noi siamo appunto l'unico partito che chiama i cittadini a scegliere. Poche settimane fa ci sono state le primarie, hanno votato 3 milioni di italiani, una cifra assolutamente significativa. Hanno voluto queste persone dare fiducia a Matteo Renzi. Ora tocca a Matteo, ma chiaramente in sintonia, io penso, con tutti gli altri, provare a guidare questa esperienza del PD in una fase che non è una fase facile, perché noi non abbiamo purtroppo vinto le ultime elezioni, abbiamo preso più voti di tutti gli altri, abbiamo la maggioranza alla Camera dei Deputati e non l'abbiamo al Senato, per cui abbiamo dovuto dare vita a un'esperienza di governo che è un'esperienza straordinaria. Ma io penso veramente che questo nostro Partito Democratico sia l'unica opportunità che resta all'Italia. Altrove ci sono appunto soggetti in cui uno solo decide sulla testa di tutti, si urla, si insulta il Presidente della Repubblica, si sale sui tetti pensando che così si risolvono i problemi degli italiani. Noi vogliamo invece provare a costruire risposte concrete, le facciamo non senza difficoltà nel sostegno a questo governo e le facciamo provando a dare forza appunto al progetto del Partito Democratico. Ma onorevole Speranza, il fatto che Renzi continui a dire che vuole però cercare un accordo, una mediazione un po' con tutti e vorrebbe incontrare Berlusconi, dice se lo incontro è perché voglio chiudere la questione, ma mi pare che dal PD siano venuti un po' di moniti, diciamoli così, si usa molto questo termine, per, insomma, non ci andare, non ci piace, è come dare una patente di legittimazione di nuovo a Berlusconi, che è pregiudicato e fuori dal Parlamento. Lei che pensa? Io penso questo, che la legge elettorale determina le regole del gioco e quindi è chiaro che bisogna provare a parlare a tutte le forze politiche, è chiaro anche che si parte dalla maggioranza perché c'è una maggioranza di governo, ma non è sbagliato a un certo punto parlare con Forza Italia. Certo, parlare con Forza Italia può significare anche, come Renzi già sta facendo, parlare con altre personalità e non con Silvio Berlusconi, che ha un processo, diciamo, ormai passato in giudicato, una sentenza di terzo grado, quindi non più appellabile. Quindi lei non sarebbe d'accordo per un eventuale incontro? Io penso che sia utile parlare con Forza Italia dopo aver parlato con la maggioranza. Ritengo poco opportuno, sinceramente, il confronto con una persona che è stata condannata in terzo grado. Senta, eventualmente rispetto a un eventuale rimpasto, se ne è parlato molto in questi giorni, soprattutto è stata ulteriormente accelerata questa possibilità dal caso De Girolamo, adesso che punto si è? Ma guardi, io penso che in questa fase dobbiamo parlare del progetto per l'Italia. Negli ultimi mesi del 2013 sono successi tre fatti politici rilevanti. È stato eletto il nuovo segretario del Partito Democratico, Berlusconi e il suo partito Forza Italia sono usciti dal governo ed è nato un nuovo partito, il nuovo centrodestra di Alfano, e Scelta Civica si è divisa in altri due partiti. C'è una fase nuova oggettivamente, bisogna provare ad inquadrarla sul piano delle proposte, le cose che riguardano la vita dei cittadini, le imprese, le famiglie. Sulla base di questa valutazione di agenda poi sarà il Premier Letta insieme ai partiti a capire se c'è bisogno di un rimpasto, ma senz'altro non si parte da lì, sarebbe sbagliato oggi fare un balletto di poltrone incomprensibili. Noi dobbiamo capire, rispetto ad una fase nuova, come aggiorniamo la nostra agenda, quali sono le questioni di fondo, a partire dai problemi concreti degli italiani, altrimenti la politica sembra un teatrino sinceramente autoreferenziale. Partiamo invece dal che fare, cosa vogliamo fare in questi prossimi prossimi mesi decisivi, ancora dentro una crisi economica che purtroppo diciamo rende difficile la vita delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Partiamo da lì, se poi gli obiettivi sono chiari e condivisi, capiremo assieme qual è la squadra migliore. E io penso che Enrico Letta, che è il nostro Presidente del Consiglio e anche uno dei leader del Partito Democratico, più di ogni altro per il ruolo che ha rivestito in questi mesi, può essere quello che ci dice come stanno le cose sul piano organigrammatico, ma sarebbe sbagliato partire dall'organigramma. Noi dobbiamo partire esattamente invece dal che fare, dal come dare ossigeno alle nostre imprese e come dare risposte alle famiglie che sono purtroppo in difficoltà. E sinteticamente sul caso De Girolamo, lei che posizione ha? Sentito il Movimento 5 Stelle presenta la mozione di sfiducia. Guardi, noi abbiamo assistito diciamo a tante vicende legate prevalentemente a notizie emerse da giornali, da resoconti di stampa. Abbiamo noi come Partito Democratico, non l'ha fatto il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo fatto noi in un'interpellanza che verrà discussa venerdì, chiesto al Ministro di chiarire. Ci aspettiamo che il Ministro venga in aula e ci faccia capire fino in fondo come stanno le cose, e sulla base diciamo di quella comunicazione noi valuteremo qual è la scelta più giusta. Ma anche in questo caso è giusto o sbagliato immaginare che rispetto a un evento si ascoltano prima le ragioni della persona? Perché è chiaro che se si fa una mozione di sfiducia prima diventa un atto politico. Vogliamo prima di tutto capire come stanno le cose, e quella domanda come stanno le cose non l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, l'ha fatta il Partito Democratico, perché ci interessa capire la verità, capire come stanno le cose e poi valuteremo. Quindi noi siamo ansiosi di capire cosa avverrà in questa la risposta di questa interpellanza che arriverà in aula nella giornata di venerdì. Invece su questioni vostre interne, Faraone della segreteria del PD, che pare è stato indagato adesso in queste spese pazze della regione Sicilia, secondo lei si deve dimettere dalla segreteria o... Guardi, io penso che lui ha tutte le carte in regola e spiegherà chiaramente come stanno le cose. È un'indagine che colpisce, mi pare di capire, quasi tutti i numerosi consiglieri regionali uscenti dell'Assemblea siciliana. È evidente che bisogna anche in questo caso far vivere un principio di garanzia. Io sono convinto che Faraone avrà modo di dimostrare nelle prossime ore la sua piena estraneità a fatti illeciti. Ancora solo due domande, poi la lascio a Roberto Speranza. E se Alfano molla sulla questione delle unioni civili, che ha minacciato la crisi se il PD dovesse insistere su questa cosa, che ne pensa? Guardi, è una posizione sinceramente sbagliata. Il Paese è molto più avanti delle nostre norme. Mi capita spessissimo di incontrare persone che vogliono soltanto vivere serenamente e aver riconosciuto un loro diritto. Quindi io penso che noi dobbiamo assolutamente rendere il nostro sistema normativo omogeneo agli altri paesi europei. Non è più il tempo di aspettare su questo settore. Io penso che abbiamo bisogno di coraggio e che sinceramente il Paese reale, le persone normali, sono molto più avanti di noi. Se due persone si amano, dello stesso sesso, di sesso diverso, noi dobbiamo riconoscere dei diritti, questo è il punto, e mi pare che il modello migliore sia quello della legislazione tedesca, che consente appunto a persone etero-omosessuali di poter serenamente aver riconosciuti i propri diritti. E con questo la ringrazio e la saluto, onorevole Speranza. Arrivederci, grazie. Buona serata. Auguri per domani allora. Grazie, grazie. Grazie. E buttiamoci anche politicamente sull'Europa, ve lo ricordo, ogni sera ci sono le elezioni il 25 maggio, quindi dobbiamo occuparci anche di temi europei. Quali sono per esempio i progetti europei in tema di clima ed energia? Europa 24 notte. Verso le europee. Tutti ne parlano, tutti la vogliono, tutti dicono di lavorare per raggiungere la migliore soluzione possibile. Poi però, al dunque, la politica energetica e la green economy restano terreno di scontro e materia delicata. A pochi mesi dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, poi, tutto diventa contrattabile. Entro il 22 gennaio la Commissione dovrà presentare la sua proposta su clima ed energia al 2030. Sembra un tempo lontano, ma considerando come funziona a Bruxelles e a Strasburgo, meglio avviarsi. La Commissione deve elaborare 4 comunicazioni su energia, industria, cambiamenti climatici e shale gas e deve dare un'indicazione chiara sulla riduzione delle CO2 e sulla quota di rinnovabili. Alcuni paesi, tra cui Francia, Germania e Gran Bretagna, spingono per fissare al 40% la riduzione delle emissioni. Olanda e Spagna, per esempio, hanno anche scritto chiedendo a gran voce una soglia ambiziosa per ottenere lo sblocco di decine di miliardi per investimenti. Sulle rinnovabili molti paesi chiedono chiedono di fissare la soglia al 30%, ma non si tratta di una posizione condivisa. Va bene per Berlino, che ha deciso di uscire dal nucleare e puntare sull'energia verde. Non va bene per Londra, che invece ha scelto il nucleare e lo shale gas. L'Italia procede senza schema. Il vicepresidente della Commissione Tajani è contrario al 40% di riduzione delle CO2. Il ministro Orlando invece è a favore, mentre il ministro Zanonato ha mostrato perplessità sul tandem 40% di emissioni in meno e 30% di rinnovabili. Al momento dunque non è dato conoscere la posizione del nostro paese. Patrizia Toia è europarlamentare del PD, vicepresidente della Commissione Industria ed Energia. Adesso la Commissione dovrà uscire con la sua proposta. Io spero che sia abbastanza ambiziosa e dovrebbe sciogliere questo nodo. Gli obiettivi sono binding o no? Sono vincolanti o no? Primo punto. Secondo, un solo obiettivo relativo alle emissioni oppure un approccio triplice, che vuole dire che si parla sia di target sugli obiettivi di emissione, sia anche sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica. Noi abbiamo chiesto di lavorare su tutte e tre i versanti. Ci sono invece altre posizioni che ritengono che è meglio avere un obiettivo molto ambizioso sulla CO2, sulle emissioni, e non sugli altri. Tutte scelte che coinvolgono molto da vicino le imprese, soprattutto quelle che più consumano energia. Una realtà comunque da affrontare. È chiaro che quando noi diamo questi obiettivi ambiziosi anche all'industria, li accompagniamo però con un sostegno anche sulla ricerca e l'innovazione, perché tutto questo costa, è una trasformazione che costa, che alla lunga fa guadagnare in salute e anche in risparmi energetici, quindi anche i costi proprio delle imprese. Però nello stesso tempo, diciamo, bisogna anche sostenere tutta l'innovazione che porta a una maggiore efficienza energetica e verso un'economia più rispettosa dell'ambiente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Allora, prima di aggiornare nuovamente chi viaggia, di prendere questa sosta, vi volevo aggiornare invece, restando in Europa, sul caso Hollande. C'è il settimanale VSD, insomma, francese, che dice che con la sua compagna Trivailer, o come si pronuncia, insomma, Valérie, la giornalista 48enne che è finita in ospedale per questo shock, dice che la loro storia è finita. Questo sarebbe l'ultimo aggiornamento. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi ed è il momento di Giovanni Soldini, testa e cuore del team Velico Maserati, che ha trionfato nella 14ª edizione della Capture Io, la regata che dice che sognava di aggiudicarsi fin da bambino. Bene, Giovanni Soldini, velista milanese, ha stabilito al momento dell'approdo sulle coste brasiliane il nuovo record di velocità, percorrendo le 3.300 miglia marine in 10 giorni e 11 ore 29 minuti 57 secondi. Onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda. Giovanni Soldini, ciao Giovanni. Ciao, ciao a tutti. Per molti considerato il miglior navigatore solitario di tutti i tempi, anche se in questa occasione sei in squadra col team Maserati, vero Giovanni? Vabbè, intanto non esageriamo. Beh, mi sembra un po' veramente... Non essere modesto, non essere modesto, su. Ma voilà. Comunque sì, questa volta siamo in equipaggio col team Maserati, che è un bellissimo gruppo di professionisti che ormai con me da un bel po', da più di un anno e mezzo. Abbiamo fatto insieme il record mio a San Francisco, poi la Transpac e adesso la Capture Io. Questa è stata una regata per noi molto bella, anche se molto triste, perché all'inizio è successo questo incidente brutto a questo ragazzo del team Angola, che comunque ha segnato la regata, insomma. E sono purtroppo cose che in sport avventurosi e rischiosi come il tuo purtroppo possono succedere. Giovanni, comunque sei all'ennesimo record, è vero? Una tappa, spiega, perché tu fai sognare anche chi di vela non ne capisce niente, però fai sognare un po' tutti naturalmente, sei un grande nome italiano nel mondo e della vela in particolare. Ma la tappa dell'oro, la terra dell'oro da New York a San Francisco, è stata una tappa di Cape to Rio? No, quello è stato proprio una roba, un record, che è la rotta dell'oro, ed è appunto la rotta tra New York e San Francisco, e passa da Cape Horn contro vento e arriva a San Francisco. Poi da San Francisco siamo andati a fare un'altra regata, che è la Transpac, che appunto andava da Los Angeles alla Hawaii, siamo arrivati secondi e non abbiamo fatto il record, e poi siamo andati a Cape Town, prima in Cina, abbiamo fatto Hong Kong, Singapore eccetera per eventi promozionali per Maserati, e poi a Cape Town abbiamo fatto la Cape to Rio, che è questa regata che è nata negli anni 60, e siamo riusciti a battere il record di ben 2 giorni, siamo primi in tempo compensato, in tempo reale e tutto quanto, quindi siamo molto contenti. Gli altri mi pare che siano a una certa distanza da voi, no? Nel senso, c'è un buono stacco, Giovanni? Sì, gli abbiamo dato un bel distacco, anche perché i primissimi giorni siamo riusciti ad andare molto a nord a cercare del vento, che loro invece hanno deciso di fare una rotta più diretta su Rio e si sono fatti inglobare dall'alta pressione e quindi da una zona senza vento, quindi hanno passato 2 o 3 giorni con pochissimo vento, mentre noi invece andavamo sparati. Giovanni, ma visto che tu hai conquistato la tua fama soprattutto per le tue navigazioni solitarie, no? Sei un lupo solitario del mare, hai fatto tanti record. Adesso la differenza invece di raggiungere, di conquistare dei record in squadra, che differenza fa per te? Evidentemente sei molto duttile perché riesci in un modo o nell'altro, ma la differenza vera per te qual è? Direi che sicuramente in solitario si crea un rapporto molto speciale con la barca, no? Perché hai bisogno di creare una specie di contatto quasi intimo, per cui anche da dentro, anche mentre dormi, anche mentre fai altro, lei riesce comunque a comunicarti quello che gli succede, e tu riesci comunque a controllare quello che succede. Mentre invece in equipaggio tutto questo rapporto speciale alla fine si sposta con le persone, no? E quindi è meno una roba fra te e la barca, è molto più una roba fra te e le persone. È meno intimistico, però può essere anche entusiasmante, no? Condividere con gli altri. No, assolutamente. Cioè, è molto bello proprio poter condividere certi momenti, che quando sei da solo sì, te li vivi, però alla fine non potendoli condividere rimangono un po' appesi, diciamo. Questo successo così all'inizio dell'anno vogliamo dire che è un'ottima promessa per il resto dell'anno. Che cosa hai già in programma, se non ti stanca l'idea dopo un successo così di pensare già cosa c'è da fare? Ma quest'anno noi faremo una serie di incontri, di eventi con i dealer Maserati in giro per sia prima in Brasile e poi negli Stati Uniti. E dal punto di vista sportivo il prossimo impegno è il record del Nord Atlantico tra New York e l'Inghilterra, è un record che ho già provato a battere per ben 3 volte. E quindi insomma ci terrei proprio questa volta a portarmelo a casa. Quando dovrebbe essere, Giovanni, questo? Noi saremo in stand-by a partire da maggio, da fine maggio. Ma sempre col team Maserati? Potrebbe essere maggio, sarà tra maggio, giugno, luglio, lì bisogna vedere, perché essendo un tempo molto difficile da battere bisogna aspettare una finestra meteorologica perfetta. Mm. Senti, insomma, è un sogno che non ti stanca mai la vela, Giovanni Soldini? Assolutamente no. E allora continua a sognare, a farci sognare. Grazie Giovanni. Ciao e buon vento. Grazie a voi. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. E restiamo ancora sullo sport, ma per un attimo leggo ancora due vostri messaggi invece sulla questione della legge elettorale. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Mario dice: chiaro che una legge elettorale che soddisfi tutti non si trova. Paolo Cognoli dice: la legge elettorale più efficace, l'uninominale a doppio turno, chiarisce, garantisce chiarezza su chi governa senza bisogno di premi di maggioranza. Ma c'è qui Dario Ricci, intanto, che è entrato. Eccomi qua, bella questa intervista con Soldini. Ma pure tu sei un po' velista, o sbaglio? Windsurf, qualcosina ogni tanto? No, in passato qualcosina, ma no, adesso qualche nuotata ogni tanto. Ti accreditavo di un passato velico da Nostromo, visto come tieni il timone di Effetto Notte. Hai visto? Metafore straordinarie. Dario Ricci, invece tu cosa ci dici di calcio? Allora, il Coppa Italia. Cioè, Coppa in Italia momento... ha finito il primo tempo di Napoli-Atalanta 1-1, chi vince tra l'altro affronterà la Lazio, quindi anche a Roma grande attenzione per questa partita. Ma e poi insomma la serata di Seedorf, che si è visto uno scampolo di Milan-La Spezia, come ricordavamo, 3-1 per i rossoneri, quindi quantomeno porta bene, che in casa Berlusconi è dote certo sempre apprezzata. Anche se contro Spezia adesso, sì. Nulla senza nulla togliere. No, per carità, insomma, il risultato era abbastanza scontato. Era scontato, ma visti questi giorni di tempesta, appunto, in casa Milan non si poteva comunque appunto darlo per scontato. Interessante il primo gol di Honda, del giapponese Honda, sai che addirittura... Che non poteva chiamarsi Honda adesso. Ah, beh, però... appunto, sei tremenda, sei con questi doppi sensi. Beh, diciamo che Honda, tra l'altro, tu sai che la TV di Stato giapponese ha chiesto al Milan di poter acquisire i diritti TV delle immagini degli allenamenti, perché Honda in Giappone è una celebrità assoluta, ha una sessantina di sponsor, è l'idolo delle ragazzine. Sarà uno dei due giocatori, dei calciatori giapponesi, esiste Giappone, qualcun altro? Tra l'altro si è qualificata ai mondiali sotto la guida del nostro Alberto Zaccheroni, ex milanista, quindi corsi e ricorsi, insomma. Quindi il primo gol accende sia l'interesse del Sollevante, sia anche, soprattutto, lo vedo di buon auspicio per l'inizio di questa avventura di Seedorf, che poi dovrà metterci molto del suo, chiaramente. Senti, la prima partita quando dovrebbe essere? Beh, è domenica sera. Domenica sera, di fatto, subito alla prova. Alle 20:45 Milan-Verona, esordio non facile, perché oltre a tutti i motivi che possiamo immaginare, il Verona, che pure è stato sconfitto domenica scorsa dal Napoli nettamente in casa per 3-0, è la squadra, una delle squadre rivelazioni del torneo, e quindi non farà sconti. Niente sconti, Seedorf, capiamo quali saranno le sue strategie, le sue tattiche con i giocatori. Poi tu dicevi già ieri che ha un buon rapporto, un certo carisma, no? Tra l'altro, assolutamente, Seedorf. Assolutamente. Adesso ha già dato l'addio a Matri, che è stato ceduto alla Fiorentina, che era stato voluto da Allegri. E vedremo cosa gli servirà al mercato, perché comunque la parola d'ordine è prima vendere per poi provare a portare qualcuno. Chissà, magari il laziale Hernanes potrebbe essere un primo obiettivo credibile. Staremo a vedere, perché poi cambia l'allenatore, ma i giocatori sono quelli, quindi. Lì si deve destreggiare. Grazie caro Dario Ricci. Grazie a voi. Grazie, noi ci sentiamo tra pochi minuti.